picchiano ed i picchi saltapicchiano, i cervi si rincorrono, scoiattoli amoreggiano, fa capolino il sole dal bosco multicolore, le fresche frasche fanno da riparo tutto l'anno, il passerotto pigola e sguscia via la spigola, vola alto lo sparviero quando il cielo è più nero, esce presta la civetta e anche il gufo si affretta, giorno notte tutto il tempo, col bel tempo del mal tempo, fuori la natura crepita, io guardo il mio smartphone, sì, gli uccellini cantano, io guardo il mio smartphone, ruscelli schioccan saltano, io guardo il mio smartphone, e il mondo ride scalpita, io guardo il mio smartphone. Segue l'alba al tramonto e brilla là sull'Ellesponto, dalle nuvole del cielo cade la pioggia sul melo, che spettacolo potente, anche la nebbia rilucente o la neve abbagliante che sorridi in un istante, fuori la natura crepita, io guardo il mio smartphone, sì, gli uccellini cantano, io guardo il mio smartphone, ruscelli schioccan saltano, io guardo il mio smartphone, il mondo ride scalpita, io guardo il mio smartphone.